Questa sera noi incominciamo appunto qualche sottolineatura o commento al simbolo degli apostoli che conosciamo come il credo. Notate una cosa che è importante e spesso non ne tengono abbastanza conto neppure quelli che parlano del credo. Noi non crediamo a Dio Padre Onnipotente, noi non crediamo a Gesù Cristo, noi non crediamo allo Spirito Santo. Noi crediamo in Dio Padre Onnipotente, in Gesù Cristo, nello Spirito Santo. Che differenza c'è? Provo a farmi capire. Io credo al barbiere. Voi crediamo al giornale, crediamo alla televisione, però se io parlo con un marito o con una moglie e quello mi dice, io credo a mia moglie che mi ha detto che oggi è successo, ha sentito dire, è una cosa, ma se mi dice io credo in mia moglie, è tutto un altro discorso. Cosa vuol dire credere in una persona? Io ho fiducia, io su quella persona lì ho costruito il mio matrimonio, la mia vita, io ho trasferito il meglio di me dentro in quella persona, per cui la chiamo per esempio tesoro, perché tutto quello che avevo di buono l'ho trasferito in lei. Io ho messo radici in quella persona lì, io da quella persona lì ho tirato fuori, ho fatto nascere i miei figli. È tutt'altro che credere al giornale, anche se il giornale dice delle cose sbagliate non mi fa né caldo né freddo, ma se io perdo la fiducia, la fede in mia moglie o in mio marito, è una frittata grossa, sono dolori. Allora credere in è un complemento di moto, di movimento, vuol dire io vado incontro, corro incontro a Dio che è mio papà. Come corre incontro il tuo bambino o correva quando era piccolo, appena tornavi a casa dal lavoro, da un viaggio, è arrivato il papà, correva e voleva essere preso sulle braccia, voleva raccontare, voleva avere un momento splendido di incontro e di intimità. Ti corre incontro, tu gli vai incontro, lui ti viene incontro. Un fatto di amore che attira due persone. Io credo in Dio vuol dire so che mi ama, io lo amo, lui viene incontro a me e io gli corro incontro. Questo è credere in. La stessa cosa è dire credo in mia moglie. Io quando posso sto con mia moglie, quando sono lontano e posso avvicinarmi. Perché? Perché ci attiriamo come delle calamite l'un l'altra. Questo vale anche per Gesù Cristo e per lo Spirito Santo. Poi c'è anche un motivo più vero, più profondo che è biblico. Nella Bibbia la fede, quella in Dio, è sempre fede in. Mi dispiace anche per le imprecisioni che abbiamo nelle nostre traduzioni. Non so, forse avrete ricevuto le ceneri in questi giorni. Allora, lasciamo stare polvere, se in polvere ritornerai, perché bisognerebbe aggiungere qualcos'altro perché sia un discorso cristiano. Ma anche convertiti oppure convertitevi e credete al Vangelo. È un'espressione sbagliata. Tanto è vero poi che l'originale del Vangelo c'è ento evangelio, in lo Vangelo, credete nel Vangelo, non si crede al Vangelo. Si crede nel Vangelo. La fede cristiana è la fede in. Che vuol dire? Lo spiegava San Paolo. Voi dovete essere ben radicati e fondati in Cristo. La fede è porre il proprio fondamento di vita, le proprie radici dentro in Dio. Non è neanche un accostarsi l'uno all'altro, è proprio l'entrare l'uno nell'altro. Se volete, ricordando una frase della Bibbia detta proprio nelle pagine iniziali, l'uomo e la donna diventeranno una carne sola, una persona sola. La fede è questo, due persone diventano una persona sola. La fede è entrare in Cristo, diceva Sant'Agostino. I Vangeli ci dicono anche l'altro movimento, per esempio il Vangelo di Giovanni. La fede è Cristo che entra in noi. Io in voi e voi in me, rimanete in me, io in voi e voi in me. La fede deve fare di due persone una persona sola. Allora io credo in Dio Padre Onnipotente, vuol dire, gli corro incontro, mi accoglie e io entro nel Padre, mi sprofondo dentro in questo che è il mio papà, il mio creatore, e non vengo più a galla. Questo vuol dire credere in Gesù Cristo, la stessa cosa. Io in Gesù Cristo divento una persona sola. Lo diciamo a messa e molte volte purtroppo la gente non lo capisce, i preti non lo dicono. Che si dice a messa? Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo, ci faccia diventare una sola persona con Cristo. Questo è il mistero della fede. Nella comunione io divento Cristo, una sola persona con Cristo. Questo è credo in Gesù Cristo. Ci vado dentro, mi immedesimo in Lui e non vengo più fuori. E la stessa cosa vale per credo nello Spirito Santo. Ho tentato di spiegare che credere è una cosa che ci interessa relativamente poco nella fede. È credere in, ossia la fede è l'amore di Dio che mi attira a sé perché io entri dentro di Lui e ci rimanga sempre. Gesù Cristo, e concludo questo cappello di introduzione, diceva nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, io, il Padre e lo Spirito Santo, veniamo ad abitare stabilmente dentro di voi. Questa è la fede in. Sappiamo che il credo è il simbolo battesimale. Cosa fa? Cosa produce il battesimo? Io ti immergo totalmente dentro nel Padre e nel Figlio e nello Spirito Santo e non venirne più fuori, resta lì e vai sempre più a fondo dentro in Dio fino ad arrivare nel centro del cuore di Dio. Questo è il significato, il prodotto del battesimo. Credere in, e quindi vanno corretti parecchi testi anche di liturgie che abbiamo in giro che non hanno capito la grande differenza. La fede è credere in, mettere fondamento, mettersi dentro, diventare una sola cosa. Bene, la fede è andare incontro a Dio. Come si va incontro a Dio? Ormai voi un cammino l'avete fatto perché non siete ancora da battezzare. Come deve essere fatto questo cammino bene e come dobbiamo proporlo ai figli, ai nipoti, a quelli che nascono? A me non l'hanno proposto bene. Vi faccio un esempio, forse ci capiamo. Se un giovanotto incontra una bella ragazza, una bella ragazza incontra il giovanotto, ma mettiamoci dalla parte del giovanotto, quella ragazza mi interessa. E incominciasse ad approcciarsi in questo modo. Ciao, che misure hai tu di petto, di fianchi? I capelli che hai sono naturali oppure la parrucchiera te li ha? Che numero porti di scarpe? Tuo padre è un industriale o è uno spazzino? Come ci resta sta ragazza? Torna a casa, dice sua madre, sai, contratto uno, mi ha chiesto che numero ho, che numero di scarpe ho, se il papà fa lo spazzino o se fa l'ingegnere, mi ha chiesto se ho i capelli così normali. E cosa dici, mamma? Io, quello è un imbecille, quello è un matto. E voi dite, e perché ha sbagliato questo incontro? Ma non si incontra così una persona con cui si vuole un bastire, una relazione d'amore. Ci si dicono delle belle parole, ci si prende a braccetto, ti paga un gelato, si incomincia a sentire una simpatia, a coltivare una simpatia, senza andare su nulla di preciso. Quando poi si è affiatati e innamorati, si può chiedere a una persona che numero hai di scarpe, o meglio, è meglio andare a chiederlo alla madre, che numero ha di scarpe sua figlia, perché voglio regalargliene un paio su misura. Quando uno è innamorato, anzi ha voglia di raccontarti che il papà fa questo, che la mamma, che ha due fratelli, che non ha fratelli, che ha il numero di scarpe, che lei c'ha i capelli così e che... ma dopo che si è innamorata, che si apre alla fiducia. Quindi l'incontro con Dio deve essere un incontro di amore e di simpatia così a prima vista. Dopo viene voglia anche di andare a catechismo e di sentir parlare, di informarsi e di approfondire e di saperne sempre di più, perché quando si è innamorati di una persona non si finirebbe mai di voler sapere anche i particolari, quello che gli passa per la testa e per il cuore, quello che ha vissuto, quello che prospetta per il futuro. Si starebbe lì tutto il giorno a bocca aperta ad ascoltare lei che ti parla di se stessa. Sarete pratici, a meno che voi qui non siate fuori dal mondo. Ma che mi vengano a parlare di uno che a me non interessa, che non è entrato nella mia vita, al quale io non voglio bene. Mi annoiano, mi scocciano, non vedo l'ora di uscire dalla lezione, finito il triennio e il biennio per la comunione, la cresima, le annate che prevederanno adesso, io me ne vado via, non torno più. Ma avete rotto a morte parlandomi di una persona che a me non interessava, per la quale io non provavo niente, per la quale non ero innamorato. Prima bisogna prendere le persone grandi o piccole e dire loro alcune cose essenziali, di cui una è indispensabile: parlargli di un Signore che vuole loro bene e che gli fa dei regali e che pensa sempre a loro e che anche un domani vedrai cosa ti farà, cosa ti dirà. Insomma, bisogna, perché è questo il modo di parlare di Dio. Poi quando noi avremo finito di dire c'è uno che ti vuol bene, questo qui dice: ma mi sai dire dov'è sta persona? Allora viene, allora lo si porta al Vangelo, alla Chiesa, alla comunità cristiana. Diversamente è un forzato, è un tirato con la catena, è uno spinto. Spesso la nostra pastorale è stata sbagliata perché abbiamo tra le mani delle persone a cui non interessa niente. Vengono per far rumore, per dar fastidio. Se gli proponi una partita al pallone nel campetto al posto del catechismo, dico sì, usciamo, perché per quello sono attirati, per Dio no. Non si è partiti con un innamoramento sincero. Dopo ti ascoltano, se no no. Ecco, allora, credere in Dio vuol dire diventare intimi con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Chi è questo Padre? Questo Padre è il Signore del cielo e della terra, il Creatore del cielo e della terra. E ci sta bene. E basta quello? Oh mamma! Il credo è fatto bene. Io credo in Dio Padre, onnipotente Creatore. Quando io ho studiato il catechismo di Pio X, chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. E dice, ma è vero? Sì, è vero, ma non è così che si parla di Dio. Han tirato fuori l'unica parola che mi arpiona, che mi aggancia. Papà, padre, Dio è il tuo papà che ha creato il cielo e la terra. Bambino, anche in mezzo a 200 uomini, indovina subito suo papà o sua mamma. Avete provato? Dice San Giovanni Crisostomo. Portate un bambino nella reggia di una regina e in mezzo a tanti nobili della corte e portateli però anche sua madre, anche se è vestita di stracci, lo metteteli in mezzo al salone, quello si guarda attorno, tac, corre e si butta addosso a sua madre, anche se è una poveraccia vestita di stracci, e lascia perdere la regina. Ossia, noi abbiamo un istinto verso il padre e la madre, abbiamo un istinto messo dentro da Dio, anche nei confronti di Dio. Dite a me che è mio padre, la cosa mi interessa. Guardate che succede nelle famiglie, tuo marito fa l'ingegnere, bene, allora tuo figlio comincia a dire, buongiorno ingegnere, tuo marito, buongiorno, pranzo, buon appetito ingegnere. Ingegnere, io esco. Ingegnere, buonanotte ingegnere. Senti, prima andare a dormire, vieni qui, senti. Chiamami papà. È vero che faccio l'ingegnere, nessuno lo discute. Ma il mio rapporto con te non è perché sono ingegnere. Potrei essere anche un facchino, un contadino, un operaio. Il rapporto che io ho con te è perché sono tuo padre. Quindi lascia perdere l'ingegnere, anche se è vero che io sono l'ingegnere. Peggio di così non potevano presentarci Dio col catechismo di Pio X. Dio è l'ingegnere creatore del cielo e della terra. Ma chi è per me? Nessuno, uno che ha fatto il mondo, sarebbe come dire, è uno che ha creato questa sala qui, che ha creato, ha fatto l'oratorio. Mi interessa, ditemi che è mio papà. Credo in Dio padre, ci siamo. Perché il papà è una persona che mi ama. E quindi, ripeto, è uno che riesce ad agganciarmi, perché quando ci si sente amati da una persona gli si va incontro volentieri, perché a tutti piace essere amati. Questo è il segreto del cristianesimo. Parlare di Dio che è amore. Lo dice la Bibbia, Dio è amore. Bene, allora, noi dobbiamo correre incontro. Dobbiamo essere innamorati, dobbiamo essere perdutamente innamorati e esaltati, se volete, dal fatto di dire Dio che ha creato il mondo è il mio papà. I bambini quando vanno in giro si vantano che il papà è grande, grosso, che il papà c'ha il macchinone, che il papà fa questo, che il papà è sindaco. Ma per dirci, come mai nessuno dei nostri bambini si esalta perché Dio è il suo papà? Noi stessi adulti, genitori, non ci esaltiamo più di tanto. Quando vogliamo tirare fuori delle referenze, diciamo, se vuole, guardi, mio cugino è assessore in comune, un mio parente, anche se al 15° grado di parentela, sempre, è il sindaco. Io sono imparentato con la regina d'Inghilterra, col Carlo, ma chi se ne impippa di quella gente lì, che tra l'altro sono quattro marci delinquenti e la gente non è neanche capace di stare al mondo. Ma tira fuori la carta, l'asso di briscola, io sono figlio del Padre Eterno. È vero, chi di noi se ne vanta? Spero che voi ve ne vantiate. Se non vi vantate perché non ci credete abbastanza. Presentate come credenziali un parente, un amico che magari è un brigante, un mezzo ladro. Come mai non tirate fuori la credenziale, sono figlio del Padre Eterno? Noi adulti, e bisogna dirlo ai figlioli, oh ragazzino, guarda che tu sei figlio del Padre Eterno, dillo a tuo figlio. Perché io devo andare a messa? Perché sei figlio del Padre Eterno. Perché devo obbedire a te? Perché io ho chiesto al Padre Eterno che cosa ti devo dire, faccio da passaparola, non vuoi obbedire, fai pure, però ricordati che disobbedisci a tuo papà che è il Padre Eterno, prima ancora che tuo papà fatto di carne e di ossa. Queste sono delle verità sacrosante che danno serietà di rapporti in famiglia e fuori, e uno dice mi rompo con Dio, è un problema molto più serio che rompermi con mio padre di carne e di ossa. Chi vuol conoscere la storia dei rapporti di Dio con l'umanità si prende in mano la Bibbia, che è il diario, diciamo così, lungo secoli, dei rapporti tempestosi tra Dio e le sue creature, i suoi figlioli, gli uomini e le donne di tutti i secoli e anche di oggi. In quale Dio noi crediamo? Si dice: io credo in Dio Padre. Padre di chi? Certamente Padre di quell'uomo Gesù Cristo di Nazareth, che è figlio dall'eternità, da sempre, e che 2000 anni fa è diventato anche uomo, figlio di Dio. E lui è diventato uomo perché noi diventassimo figli di Dio come lui. È venuto a fare uno scambio. Si dice proprio il primo dell'anno, o ammirabile scambio. Dio è nato da una donna e si è fatto uomo. In cambio ci ha donato la sua divinità. Lui si è fatto uomo perché noi diventassimo Dio. Lui si è fatto figlio dell'umanità perché noi diventassimo figli di Dio. Queste sono verità fondamentali. Questa è la nostra carta d'identità. Quella del comune non è la nostra carta d'identità. Sì, serve per le cose specie. La carta d'identità vera del cristiano in questa vita e anche nella vita eterna è il certificato di battesimo. È il certificato. Io sono figlio del Padre Eterno, fratello di Gesù Cristo. Quando noi facciamo il segno di croce, diciamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo e ricordiamo il battesimo nel quale siamo stati immersi nell'acqua e hanno pronunciato le parole: ti battezzo, ti immergo totalmente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cosa vuol dire nel nome? Nel nome, ento onoma, era l'espressione che usavano al tempo degli evangelisti, i notai, quando mettevano a documento una proprietà. Ma ancora adesso si fa la stessa cosa. Compri un appartamento, un'automobile, a nome di chi la metto? La metto a mio nome, nel mio nome, scrivo sul mio nome e cognome. Io sono io che divento il proprietario. Bene, siamo stati messi a nome del Padre Eterno, che vuol dire siamo suoi. Suoi figli, siamo stati iscritti dentro nello stato di famiglia del Padre Eterno. Padre Eterno, capofamiglia, Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la Madonna, mettetene tanti. Se andate a leggere in quello stato di famiglia, il 28 di febbraio del 1939, sono stato scritto dentro anch'io come figlio legittimo del Padre Eterno, nato col battesimo, il 28 febbraio del 1939, e me ne vanto. E io da anni, da quando sono rinsavito un po', non celebro più il giorno della nascita da mia madre, con tutto il rispetto, ma il giorno della mia nascita da Dio. Perché è più importante, il giorno del mio battesimo. Perché diceva Sant'Agostino, per la nascita dalla madre e dal padre avremmo avuto solo motivo di piangere, perché eravamo destinati ad andare all'inferno, c'è poco da ridere, da festeggiare. Per fortuna che siamo nati una seconda volta da Dio e attraverso quella nascita siamo stati indirizzati verso il paradiso. Queste cose dovrebbe dirle il Papa, perché quello fa festa quando è nato dalla mamma. E i vescovi, e i parroci, e i frati, e voi... Sono figlio di Dio. Ah certo, nella mia comunità mi fanno festa con una torta il 26 di febbraio, perché è la data della carta d'identità. Ma io voglio la carta del battesimo, perché quella è la verità definitiva. E allora io il giorno 28 mi prendo una giornata, una mezza giornata in cui sto un po' per i fatti miei, faccio un po' di ritiro, per godermi il ricordo di essere nato dal Padre Eterno. E mi tira sul morale e mi gongolo e me la godo tutta e sono contento. Sono figlio del Padre Eterno. In una parola, leggo un testo così tanto per riassumere la Bibbia, la nostra religione. Noi crediamo nel Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, nel Dio di Gesù Cristo, un Dio vivente, non il Dio dei filosofi, un Dio che è un'astrazione, un pensiero fermo, immobile. Noi crediamo in un Dio che esiste dall'eternità, che vive la nostra storia insieme con noi, come ogni padre sta lì in mezzo alla sua famiglia e porta avanti la sua famiglia. Questo è Dio, il Dio con noi. Il Dio padre di famiglia che ci porta avanti per arrivare a destinazione dove sa Lui e non ne vuole perdere neanche uno dei suoi figlioli. Quando voi andate a spasso, avete qualche figlio e la moglie, e ogni tanto non date un'occhiata per vedere che qualcuno non resti indietro o non ve lo portino via. Sì, a maggior ragione il Padre Eterno. Ha detto Gesù Cristo: io i miei cristiani li ho messi nelle mani del Padre mio, perché è il più forte di tutti e nessuno riesce a rapirli dalle mani del Padre mio. E di che cosa vi preoccupate? State peggio voi se perdete un figlio di quanto sta il vostro figlio perso in giro, perché diventate matti, diventate delle belve. Il Padre Eterno è infinitamente più belva di voi, va bene? Mi sono spiegato? Questo è credere in Dio, queste sono le applicazioni spicce, concrete, su cui però bisogna impiantare, mettere fondamento e starci dentro e avvalersene, perché con la fede in Dio che è mio papà, i problemi si relativizzano, certo devo collaborare anch'io, ma è roba da ridere. È che noi viviamo come se il Padre Eterno non ci fosse, siamo degli orfanelli che devono provvedere, abbiamo delle paure da matti, ho il terrore, sai, il futuro, si immagina, forse io prenderò un tumore, forse e quando sono solo in casa, quando morirò, oh Signore, ma lei crede che c'è il Padre Eterno che è lì con lei? E mica da sola, c'è il Padre Eterno, Gesù Cristo, lo Spirito Santo, ma con quelli si fa poca festa. Sono migliori quelli di quelli che vengono a ciarlatanare in casa o a farti perdere tempo, ma per piacere. Leggo alcune frasi dette da Gesù Cristo su Dio. Allora, Gesù dice: se conoscete me, se amate me, conoscerete, amerete anche il Padre. Fin da ora voi lo conoscete, lo amate e lo avete veduto. Allora gli dico: veduto, veduto dove? Non abbia mai visto nessuno. E Gesù continua dicendo: chi ha visto me ha visto il Padre. Io sono nel Padre e il Padre in me. Allora come si fa a sapere chi è questo Dio Padre? Si legge la Bibbia, abbiamo detto, e soprattutto si ascolta il Cristo, quello dei Vangeli in modo particolare, che è venuto per parlarci del Padre. E mi sembra che Gesù, nel capitolo 17 di Giovanni, sia rimasto anche un bel po' deluso da come era andata la faccenda, dice in questa preghiera a Dio Padre: Padre, io ho presentato la tua persona agli uomini, ma loro non l'hanno accolta, non hanno ascoltato. Non è poi che se ne siano interessati più di tanto. Ancora adesso, guardate, del Padre Eterno si parla poco. E bisogna parlarne solo nel modo con cui ha parlato Gesù Cristo, se no si fanno delle filosofate che non servono a nessuno, si fanno delle conferenze per farsi belli, per usare paroloni. Parliamone come ce n'ha parlato Gesù Cristo. Ci ha insegnato una preghiera sola, Gesù Cristo, sostanzialmente, il Padre nostro. Io non voglio litigare con i teologi e neanche col Magistero della Chiesa, perché ci sono dentro anch'io nella barca. Ma a me ha sempre fatto una sana e santa impressione che i primi due autori del Nuovo Testamento, Paolo e Marco, quando parlano di Gesù che pregava il Padre o parlava del Padre, ci riportano la parola testuale della lingua aramaica parlata da Gesù, Abba, e poi tra parentesi ci mettono Pater in greco, Abba che vuol dire padre in greco, ma guardate che lì non dice padre in aramaico, dice papà, babbo. se il primo autore, che è Paolo, dice Abba, poi per chi non capiva la lingua ha messo lì padre, perché in greco non c'era il corrispettivo. Se il primo evangelista Marco dice, Gesù diceva Abba, anche lui pater tra parentesi, credo che tutti i testi del Nuovo Testamento dopo questi primi due autori, anche se non riportano la parola Abba, quando troviamo Dio chiamato pater, hanno tradotto padre, ma andrebbe tradotto con papà, babbo. Perché altra cosa è che tuo figlio ti dica padre o papà? Chi dei vostri figli in casa vostra vi dice padre, madre? Avete un figlio che vi chiama padre? Avete un figlio che vi chiama madre? Vi sfido a girare tutto il mondo. Nessuno chiama i propri genitori con padre, madre, ma sempre con papà, babbo, mamma, o dei diminutivi vesteggiativo, pa, papi, ma, anche in mezzo alle tribù più sperdute. Allora, se Dio è mio papà, devo chiamarlo papà, ed è diverso che chiamarlo padre. Quando si parla con degli estranei si dice mio padre, mia madre, ma quando io parlo con questo Dio che è mio papà, lo devo chiamare papà. Se i tuoi figli ti chiamassero padre o ti chiamassero madre, tu li correggi, dici guarda, qui in casa si usa la parola papà e mamma. Non so se vi convinco. Visto che noi siamo i figli di Dio e stiamo in casa del Padre Eterno, il Padre Eterno vuole essere chiamato papà, non padre. Quando diventerò papa, non ascolterò nessuno, non si dirà più Padre nostro che sei nei cieli, ma si dirà papà, e neanche che sei nei cieli, perché non vuol mica dire quello. Il Padre nostro è tutto da tradurre. Vi ricordate che ne abbiamo parlato? Santa Teresina del bambino Gesù che non aveva neanche il Vangelo da leggere perché non glielo davano, il Padre nostro che sei nei cieli l'ha tradotto così, papà che sei il buon Dio. Che sei nei cieli, papà che sei nei cieli, è per distinguerlo dal papà di carne e di ossa che abbiamo qui in terra, ma non è perché è lassù, per distinguere il Dio papà dal papà coi baffi che abbiamo avuto. Si dice io credo in un solo Dio. E andiamo avanti anche perché il credo poi è lungo, si arriva in fondo, veramente spolmonati soprattutto noi vecchi. Amen, dice, meno male, vi è voglia di sedersi subito. Credo in un solo Dio, non è una cosa che si può dire su così alla svelta. Guardate, è una dichiarazione che non ci può lasciare beatamente tranquilli. È un grido rivoluzionario, è una dichiarazione di guerra, ma non nel senso di quelli che ammazzano gli altri. Perché? Perché vuol dire, se io credo in un solo Dio, rifiuto tutti gli altri dei chiamati idoli. Un solo Dio, uno, punto e basta. Perché abbiamo anche altri dei nella vita. Al tempo in cui è nato il cristianesimo, sull'Olimpo greco ce n'erano su a decine di dei e di dee. A Roma c'era Giove, Giunone, Marte, l'imperatore era adorato come Dio, la dea Roma, era tutto pieno zeppo di dei. I cristiani dicono, noi crediamo in un solo Dio. E come si può applicare oggi questa cosa? Ma direi come l'applicava San Giustino Martire, che è morto nel 165 d.C., quindi uno dei primi cristiani, che affermava, è vero che ci chiamano atei, quelli dell'impero romano, è vero, dato che noi non crediamo agli idoli, agli dei dei pagani, noi siamo gli atei di questi presupposti dei. Noi a quegli degli non ci crediamo mica, noi crediamo in un solo Dio. Allora, primo lavoro da fare, e guardate che è lungo e doloroso, dobbiamo abbattere la selva di false divinità che umiliano la nostra dignità umana e bloccano la crescita verso la libertà. Abbiamo un mucchio di idee, di padroni noi nella vita, ma leviamoceli di dosso. Tutti! Ne deve restare uno solo. Quando parleremo, credo, in un solo Signore Gesù Cristo, Signore vuol dire proprietario, padrone. Io ho un solo proprietario della mia vita, io appartengo a uno solo, a Dio. Tutti gli altri non sono padroni di niente nella mia vita, né il Papa, né il Presidente della Repubblica. Io sono di Dio Padre, io sono di Gesù Cristo, sono di Dio. Ma io voglio far da padrone nella tua vita e io ti mando fuori dai piedi. Ma non perché sono allergico, voglio essere un libertino, ma perché Cristo non vuole che io accetti un secondo padrone, perché è geloso e dice tu sei mio e basta. E allora nella Chiesa quanti padroni ci sono? Uno solo, Gesù Cristo, il Padre. E tutti gli altri, il Papa, il Cardinale, il Parroco, il Papà di Famiglia, tutti fratelli e sorelle in atteggiamento di reciproco servizio. Tutti servi e nessuno padrone, e noi siamo servi di tutti e padroni di nessuno. Diversamente è peccato, offendiamo Dio perché accogliamo un altro padrone nella nostra vita e ripeto, Dio l'ha detto in tutta la storia della rivelazione, che è un Dio geloso, sei mio e non devi essere di nessun altro, io sono il tuo papà e non tirarne fuori un secondo, io sono Gesù Cristo il tuo salvatore e non ce n'è un altro, io sono Gesù Cristo tuo sposo e non ce n'è un altro, perché anche il marito o la moglie che hai è un marito, una moglie, in Cristo sia dentro in questo amore che Dio ha per te, per lei, per voi due messi insieme. Ecco allora, quanti sono sti dei? Un mucchio, incominciando dal nostro egoismo. Io sono mio, faccio quel che voglio, l'utero mio lo gestisco io. Ma cosa dici, se non hai capito l'ABC? Parliamo di quelli un po' più spicci, ma alla svelta. Il potere politico, il potere religioso. O è servizio oppure diventa un idolo e corrompe l'uomo e la società. Non lo so se siete convinti della buona gestione del potere politico che esiste sulla faccia della terra. Io no. Ma neanche all'interno della Chiesa alle volte è gestito bene, si dice ma si fa mica così, tu sei mio fratello, aiutami, non puoi farmi da padrone. Mi basta il Signore Gesù Cristo, ha detto di non prendere in casa nessun altro. Il sesso, per esempio. Oggi, se non si mette lì una donnina svestita, non si riesce a vendere né il sapone, né il dentifricio, né un paio di scarpe, né un'automobile. Per vendere bisogna mettergli una donna che noi forse non ce ne accorgiamo, ma il trucco ci sta sotto. Perché diciamo, comprando la macchina mi porto a casa anche quella donna lì che c'era lì davanti, invece quella non te la danno poi alla fine. State attenti che vi fregano, Perché noi compriamo una cosa pensando di portar via la donna più che la mercanzia che doveva star lì a propagandare, a mettere in evidenza. Sono meccanismi tremendi, forse non ce ne accorgiamo. Allora, il sesso, certo, è una delle cose più splendide della creazione, a servizio dell'amore, dell'intimità, della vita. Ah, è un mezzo straordinario per crescere in umanità, in virtù, in santità, per essere graditi a Dio, ma non può diventare il Dio sesso che ci impiantiamo qui nella testa, pensiamo solo a quello, ci muove solo quello. Ma allora Dio non è più Dio, ti muove il sesso, ti muove il potere, ti muovono i soldi, per Dio, ma per Dio non fai un centimetro, allora non è il tuo Dio. Parlando anche del denaro che ci vuole, visto che siamo in una società sostanzialmente pagana dove la gratuità non esiste, il Vangelo ci presenta l'antidio, il denaro. Gesù ha cacciato l'antidio dalla casa di Dio quando l'unica volta che ha usato la violenza fisica e la gente si scandalizza e dice «Oi, quel giorno lì anche Gesù Cristo ha perso le staffe, ha picchiato e quindi posso picchiare anch'io». No, ha fatto quel gesto clamoroso per dirci una cosa e non l'abbiamo ancora capita. Fatemele tutte, ma non venite qui a comperare, a vendere mio padre, perché questa non la mando giù, non posso. Perché il Dio portato nel Tempio è la prostituzione del vero Dio, che secondo noi può essere comprato e venduto. È prostituzione. Ed è il peccato più grande che si può fare nei confronti di Dio, che è amore e quindi gratuità. Io non sono in vendita, io amo gratis, e lo sapete per esperienza. Che ogni amore, anche quello di amicizia, o è gratuito o non è amore. E tenersi buona una persona e fare un investimento, ma quello non è amore. Mi devi voler bene perché sono io, non perché speculi sulla mia persona. Lo imparassimo nella famiglia e nella società. Bene, altre divinità ve le raccontate voi andando a casa stasera. Dice, ma io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore. Noi speriamo di crederci per davvero, però un piccolo sospetto è bene che venga su. Se viene su, non spaventatevi. E forse verrebbe voglia di dire, credevo di credere in un solo Dio, invece io ne credo in 5, 6, 8, 10. E si tratta di aggiustare la situazione, si tratta. Questo Dio è Padre onnipotente. Voi sapete che la Bibbia dice che Dio è amore, ed è un amore ben preciso, un amore paterno. Paterno, tanto per ricominciare dal padre. Chi è padre e madre ha fatto l'esperienza, forse prima non capiva, ma dopo che ha avuto un figlio ha capito, che cosa vuol dire essere padre o madre. Allora, come si fa a parlare di questo Dio Padre? Padre è una persona che mi ha voluto tanto bene da darmi l'esistenza. Mi ha mantenuto sue spese, mi ha protetto, mi ha istruito gratis, beh, non è che mi ha detto ogni ora in cui ti parlo mi dai 40 euro come i maestri o i professori che avete chiamato in casa a sostegno dei vostri figli, gratis. Mi ha tirato su nella vita gratis, e quando ho detto papà me ne vado perché devo fare la mia vita, ho fatto quattro lacrime, mi ha detto è giusto, perché io non ti ho tirato su per tenerti, ma per vederti realizzato nella vita. Bene, questo Dio Padre è la prima immagine di amore che noi abbiamo anche nella nostra esperienza umana. Quando si nasce probabilmente non è che si capisca tutto, si capisce niente, però si sente distinto la presenza di una voce paterna, una voce materna, di due mani robuste, di due mani delicate. In casa c'è un ambiente di serenità, non si urla, non ci si picchia, non è guerra continua. Il bambino si trova a suo agio, quello è l'ambiente ideale. E incomincia a conoscere il papà e la mamma prima ancora di parlare. Lo conosce per esperienza, per un contatto preciso, quotidiano, continuativo, di giorno, di notte. Quella è l'esperienza che fa il bambino dei suoi genitori. E questa deve essere l'esperienza che facciamo noi bambini di Dio con il nostro Dio che è papà e mamma. Dio è amore. Qui bisogna che abbiamo il coraggio di negare un mucchio di cose, anche se ce l'hanno insegnate, e di creare un sistemino, un giochino, che ci aiuti forse a buttare fuori definitivamente tutti i contorsionismi sul conto di Dio. Catechismo ci diceva, Dio è infinito, sì, Dio è infinito, e vi dico, non è vero. Dio è potente, no, Dio non è potente. Onnipotente, non è onnipotente. Dio è giusto e vi dico, no, Dio non è giusto. Finiamola con queste baggianate che hanno rovinato la nostra vita cristiana. Finisco il discorso, non è come dire, vado fuori, quello ha detto che Dio non c'è. No, no, c'è Dio, ma bisogna parlarne con precisione. Alcuni maestri del dubbio, filosofi dell'ultimo secolo, dell'Ottocento, sono partiti da una religione presentata male, da un catechismo presentato male. Quando si parla di Dio che è amore, che vuol salvare tutti, e che Dio, appena chiudi il becco, salto, sì, però Dio è anche giusto. Che cosa vuol dire Dio è giusto? Ma non lo so, allora stai zitto che te lo spiego io. Volete una formula semplicissima? Dio è Padre mio nostro. Dio è amore. Tutte le altre parole che pur sono scritte nella Bibbia, per praticità, trasformateli in aggettivi dell'amore. Dio è amore onnipotente e mi sta bene. Dio è amore giusto, e quando è che un amore è giusto? Quando mi ama, quando mi vuol bene, se no non è mica un amore giusto. Dio è un amore infinito, diceva Sartre. Voi dite che Dio è infinito, ci sono anch'io a questo mondo, io sento di esistere, allora o anch'io sono Dio dentro in questo infinito, oppure Dio non c'è perché io ci sono. Perché per lui l'infinito voleva dire Dio prende dentro tutto. Ma se voi dite Dio è un amore infinito, è l'amore infinito, noi sappiamo e voi sapete per abitudini domestiche nel vostro lettone matrimoniale che quando vi nasce un bambino e volete tenerlo lì tra l'uno e l'altra, voi fate spazio a costo di cascare dal letto per fare spazio alla vostra creatura che viene ad occupare un posto, o no? Quando i vostri figli, non solo la domenica mattina, vengo anch'io nel lettone, si cacciano dentro, voi vi tirate da parte perché fate spazio a vostro figlio. L'amore infinito si tira indietro per dare spazio alla creazione, alle creature, come due genitori che occupavano tutta la casa fanno spazio quando nasce un figlio. I rabbini, già prima che venisse Cristo, dicevano Dio amore crea tirandosi indietro per fare spazio alle sue creature perché emergano dal nulla. Se io dico che Dio è infinito, non dico una cosa giusta, ma se dico che Dio è amore, e lo dice la Bibbia, infinito, dico una cosa giustissima. Un amore infinito è capace di fare spazio alla creatura che ama, come il vostro amore riesce a fare spazio a un figlio, a due, a tre, quanti ne arrivano in casa. Non è solo una questione di linguaggio. È per evitare quelle maledette contraddizioni che fanno caos, per cui un giorno Dio è buono e il giorno dopo è cattivo. Oggi mi ama e domani mi odia. Spero di non screditare nessuno, ma cito un fatto avvenuto qui vicino. Anni fa io cercavo un prete che di domenica andava a confessare in una parrocchia di Monza. E mi hanno detto, vai lì, guarda, tra una messa e l'altra devo dargli delle cose e chiedergli. Vado lì, lo trovo, arrivo alla fine della messa dei bambini, allora c'era il parroco, la messa, dice, allora bambini, tiriamo un po' le conclusioni. Dio ama i buoni, sì. Dio odia i cattivi, sì. Bene, avete capito, vi benedica Dio. Quello è matto. Quello è matto, quello dice delle pazzie, Dio odia i cattivi, ma allora chi ama? Se Gesù Cristo è venuto a morire per i cattivi, per i peccatori, se come compagno di entrata in paradiso si è preso un brigatista, un brigante, un lazzarone che era lì crocifisso con lui, ma siamo matti? Dio ama tutti e sempre, buoni e cattivi, perché sono i suoi, siamo i suoi figlioli. Voi quando avete un figlio che vi dà dei dispiaceri, vi fa piangere, o fa il cattivo, o si comporta male, non lo amate? Qualche genitore vi dice, basta, io non lo amo più, a parte sono parole, poi dopo piange come un matto, perché vuol dire che le parole non corrispondono. Quando hai un figlio grave in ospedale, non lo ami più, stai lì a giocherellare con quello sano? Ti amo, chi ha un minimo di esperienza di padre, di madre, di capacità di amare, dice, devo dare la precedenza alla persona più grave, perché ha più bisogno, al figlio più cattivo che mi dà più pensieri, perché ha più bisogno. Quindi se proprio bisogna mettere un di più in Dio, Dio ama più i cattivi che i buoni, perché i cattivi hanno più bisogno e sono suoi figli come i buoni. Difatti, se leggete bene il Vangelo di Matteo, bisogna leggerlo con attenzione, il Vangelo un fru, dice il Padre vostro fa sorgere il sole sopra i malvagi messi al primo posto, o i cattivi, se volete, messi al primo posto, e i buoni messi al secondo posto. Andate a leggere il Vangelo. Perché prima sui cattivi? Perché ne hanno più bisogno. Questo è il Dio del Vangelo, eh? Non è che lo stiamo inventando. Questo, allora, questo Padre onnipotente, sì. Allora diciamo una cosa, io ho letto anche il commento del Cardinale, fa un po' di fatica anche lui a spiegare certe cose. Quando parla di dell'onnipotenza di Dio che lui usa per amare. Io lo dico al mio modo, il Cardinale giustamente ha le sue buone ragioni. Io credo in Dio, Padre, amore, onnipotente. Onnipotente non è un aggettivo di Dio, ma di Padre. È Padre onnipotente, è amore onnipotente. E cosa può fare un amore onnipotente? Volermi bene con tutta la sua capacità, con l'infinità della sua potenza. Amore onnipotente. Dio, detto in altre parole, può solo voler bene. Dio amore può solo amare e non può fare altro che amare. Tiratevi via dalla testa tutte le altre cose che pensate che Dio può fare. Dio può solo amare e non può fare nient'altro, se no non sarebbe Dio, sarebbe un povero come noi che un giorno amiamo e il giorno dopo odiamo, ma noi siamo delle banderuole. Dio è amore e non è nient'altro che amore. Tutte le altre cose, mettetele lì come aggettivi, attributi dell'amore. Dio è misericordia, è un amore misericordioso. Si disfa il cuore nei confronti del nostro peccato, della nostra miseria, si intenerisce fino a sciogliersi e via di questo passo. Quante volte qui nell'Antico Testamento, già allora, perché la Bibbia ha sempre parlato bene di Dio, Dio dice, parlando del popolo di Israele, ma si dimentica forse una donna del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Altra citazione, quando Israele era giovinetto, quindi Dio che ha questo figlio Israele che è nell'età dell'adolescenza, insomma quei torelli che scalpitano in continuità, che vuol dire che sono sani, perché se sono imbambiti, vuol dire che non è mica un ragazzo, un giovanotto. Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato e dall'Egitto l'ho tirato fuori per portarlo alla libertà. Ma più lo chiamavo, più si allontanava da me. Ecco la disobbedienza tipica dell'adolescente, del giovanotto. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, quindi Dio come un papà che insegna a camminare al suo bambino. Ma essi non compresero che avevo cura di loro, ossia questo figlio di Dio, il popolo di Israele, non capisce l'amore di Dio, lo contesta, disobbedisce, lo pianta lì, se ne va, come fanno spesso i figli per un arco di vita, alle volte anche lungo, nei confronti dei genitori. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli di amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla guancia. Mi chinavo su di loro per dargli da mangiare, quindi atteggiamento tipico paterno e materno. E poi il Nuovo Testamento, Gesù dice, quale padre tra voi, se il figlio gli chiede pane, gli dà una pietra, un sasso. Quante volte avete messo nel tavolo o dentro nel cestino del pane un sasso voi a casa vostra? L'avete messo? E Dio, che è infinitamente più buono di voi, dovrebbe mettervi lì un sasso quando gli chiedete un panino? Guardate che Dio è più buono di noi, eh? E per quanto lo diciamo buono, siamo al di sotto infinitamente di quello che meriterebbe. Non ci sono parole per dire quanto è buono. E allora continua Gesù dicendo: se dunque voi genitori che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà cose buone o darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Chiedigli qualcosa, se è roba buona te la dà subito, se è roba cattiva non te la dà, ma anche tu non dai la roba cattiva ai figli. Se ti chiedono dammi quella roba lì, tu sai che fa male, non gliela dai, ma neanche se ti ammazzano. Ma se chiedi roba buona, se chiedi che Dio ti voglia bene, ti esaudisce sempre. E via di questo passo. Dio è padre di tutti e di ciascuno, intendiamoci, è padre anche dei cattivi, sono nostri fratelli. Non è mica passato molto tempo da quando la domenica abbiamo sentito dire: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, pregate per quelli che vi maltrattano. Allora sì, siete figli del Padre Eterno, perché Lui fa così con i cattivi. Dio perdona tutti e sempre, ama tutti e sempre, anche quelli che non lo meritano, anzi soprattutto quelli. Il Vangelo ci insegna che Dio non ama secondo i nostri meriti. Meriti 10, ti do 10. Tu invece sei 10 sotto zero, ti do 10 scappaccioni. No, Dio non ama secondo i meriti delle persone, ma secondo il loro bisogno. E i peccatori e i lazzaroni sono più bisognosi di essere amati, come i malati gravi hanno più bisogno del medico di quelli che stanno bene. L'amore dei genitori nei confronti dei figli va prima di tutto al figlio più piccolo, al figlio malato, al figlio eventualmente portatore di handicap. E quasi quasi i figli sani si lamentano dicendo: tu vuoi troppo bene a quello, sei sempre lì con quello, sembra che ci sia solo quello e trascuri me perché sto bene, sono sano. Ci sono di queste tigne in certe famiglie, no? Figlio di 20 anni dice: mamma, quando è che badi anche a me, stai sempre lì a guardare a mio fratello che ne ha 5 o che è in fasce. È normale, si incomincia ad amare quelli che hanno più bisogno, è normale, fa così anche Dio, se no non sarebbe mica Dio. Bene, allora, Padre Onnipotente, vi leggo così, non velocemente, e capirete al volo. Ascoltate da genitori, non da ragazzotti. Affermare che Dio Padre Onnipotente non è un modo per negare la sua tenerezza, rimettendoci da capo sotto l'incubo della sua maestà. Te è onnipotente, è il creatore del cielo e della terra, qui c'è da scappare perché ti schiaccia. No, no. Quando eravamo bambini, pensavamo istintivamente che il nostro papà era onnipotente, o quasi. Ci sollevava in alto come fuscelli, le sue braccia erano così forti da portare il mondo, sempre nella nostra mentalità di bambini. Questa forza di nostro papà ci incantava, ci dava sicurezza, non ci faceva paura. Mio padre è grande, grosso e forte, allora ho paura perché quello mi ammazza. Tutta la forza che ha la mette a tuo servizio per amore, non è qui per ammazzarti, per sollevarti, per difenderti dagli altri. Se tuo padre non ti desse questa fiducia, arriva un malintenzionato, mio padre scappa via e quello viene a buttare all'aria me, la mamma e tutti. Dice, arriva uno in casa mia, mio papà, con un pugno, lo sbatte fuori dalla porta in piazza, i bambini parlano così, non so se l'avete mai sentito, quando devono esaltare il loro papà. Quelli lo fanno distinto, ma noi abbiamo delle ragioni teologiche per credere. La potenza di Dio ci fa piacere perché è una potenza a nostro servizio, a nostra difesa, non a nostra offesa. Ma per dirci, l'avversario, il cattivo, è il diavolo, non è il Padre Eterno, in altre parole. Il Padre Eterno è tutto amore nei miei confronti, è mio papà. se non si capiscono queste cose, si sta un po' di qua, non si capisce niente della religione cristiana. Il nostro Padre Onnipotente è il Signore dell'universo, e tutto questo non solo non ci atterrisce, ma al contrario ci esalta, perché Dio, come ogni padre degno di questo nome, mette tutto se stesso, le sue qualità, la sua potenza, la sua onnipotenza, al servizio dei suoi figlioli e a loro difesa. La visione cristiana di Dio, come vedete, non rimpicciolisce Dio, ma nello stesso tempo fa diventare grandi noi, grandi nell'amore, perché siamo figli di Dio. C'è da esaltarsi, da vantarsene, ma con una gioia, da uscire di testa. Io mi meraviglio di non essere ancora pazzo, mi piacerebbe diventarlo, per questi motivi qui ovviamente, perché Dio mi ha fatto scoppiare la testa, tanto, tanto mi ha riempito di sé. Ecco allora, concludiamo, o quasi, perché io sono sempre più lungo del previsto. La piena spiegazione del credo non l'avremo in queste prime parole. Questa onnipotenza di Dio creatore non la si capisce mica fino a quando se ne parla così e non si arriva alla seconda parte, perché Dio Padre si è fatto conoscere attraverso Gesù Cristo. E guarda, è nato questo bambino a Natale, vi ricordate? E dice, chi ha visto me ha visto il Padre. Al Padre Eterno ti incute paura, ma no, lo vedo lì presente nel suo bambino appena nato Gesù. A me fa tenerezza, a me fa piacere, come sono contento. È nato un bambino, è nato il bambino di Dio. Ma è roba da andare fuori di testa. Quel bambino lì che è Dio ti fa paura? No, durante la sua vita Cristo ha fatto paura, ma no. E quando è morto ammazzato su un patibolo, andate a guardare, fa paura, a me fa una tenerezza, una compassione, quella vera, ma da sciogliermi dicendo, ma guarda quello lì quanto mi ha amato, ha voluto più bene a me che a se stesso, è morto lui perché non morissi di morte eterna io, ma tanto di cappello. Quella è la manifestazione vera di Dio. Quindi nella seconda parte del Vangelo capiremo un po' meglio chi è il Padre Eterno, proprio così come si rivela attraverso i comportamenti di suo figlio Gesù. Abbiamo già detto, Dio è amore, la sua onnipotenza è l'onnipotenza dell'amore. Dio non è altro che amore, lasciate via tutte le altre cose. Dio è giusto? No, Dio non è giusto, perché tu hai in testa la giustizia di un Dio che si siede lì al tribunale e dice, tu quanti peccati hai fatto? Perché ce l'ha raccontata bella, Liber scriptus proferetur, tirano fuori un libro in cui c'è scritto dentro tutta la tua vita, da quando sei nato a quando sei morto. E che cosa c'è scritto dentro? Ci hanno anche detto quello, e l'hanno detto a me, non so voi cosa hanno raccontato, e mi hanno detto delle cose idiote. Lì c'è dentro tutta la descrizione dei tuoi peccati dal primo momento all'ultimo momento. E già, ma voi siete scemi, c'è scritto nella Bibbia, le lacrime mie nell'otre tuo raccogli. Il Signore nel libro della vita non ha messo dentro i debiti, ha messo dentro le opere buone. Facciamo un esempio, ve l'ho già fatto. Chi di voi a casa ha conservato tutta la cacca da quando il bambino è nato, tutti i pannolini sporchi, tutta l'acqua del bagno, tutte le cose, tutto lo sporco? Lì, centinaia di botti e di casse. Quando poi il figlio dice, adesso mi sposo, e te guarda qui quanto ci sei costato, tira fuori mezzo miliardo, guarda qui. Ma fanno così i genitori. A casa vostra c'è il libro del vostro matrimonio, le cose belle, il libro del bambino fotografato bello, e così, cos'ha, e quando metteva il cappellino, e quando eravamo qui, tutti i ricordi belli, quelli brutti, non li avete mica conservati. La sporcizia del bambino, i difetti del bambino, mica li avete conservati. Voi conservate la parte buona e Dio dovrebbe conservare la merda dei suoi figli. Diciamo sta parola con chiarezza, perché è ora di finirla con queste puttanate sul conto di Dio. Dio tiene nota dei miei peccati. Ha detto nella Bibbia: io perdono i vostri peccati, li butto via lontani quanto dista l'Oriente dall'Occidente, ossia una distanza infinita, e non mi ricorderò più dei vostri peccati. Non li tiene lì come le fatture o in memoria su un supporto. I peccati li perdona e li dimentica, li butta via come voi buttate via l'acqua sporca della lavatrice e del bagno dei vostri figlioli. Ma se fate così voi, perché Dio dovrebbe essere più stupido di voi? Ditemelo. Io di fronte a queste cose divento beluino, ho poco equilibrio probabilmente, dovrei essere sempre pacato come quelli che vi aiutano a dormire. È ora di finirla di pensar male sul conto di Dio. Se i vostri figli pensassero male nei vostri confronti, come pensiamo male noi nei confronti di Dio, andreste in una crisi pazzesca. Dicessero in cuor loro: i miei genitori non mi hanno amato, non mi vogliono bene. Come ci restereste voi? Mio padre ricorda solo gli sbagli che ho fatto, le cose buone non le ricorda mai. Voi dite: ma no, il Padre Eterno dovrebbe essere così, ma andiamo a quel paese, va. Ecco, allora, stiamo arrivando alla fine e c'era da dire qualche cosa su Dio, creatore del cielo e della terra. Vi dico due pensierini, perché chi lo vuol leggere, ci sono c'è un testo pulito, si faccia fare le fotocopie. Due conseguenze dal fatto che Dio è creatore. Ha creato la terra, dice la Bibbia, e ha messo lì l'uomo e la donna perché lavorasse e custodisse la terra. Noi siamo i guardiani, quelli che continuano l'opera della creazione. Dio ha lasciato lì il lavoro a metà perché noi potessimo continuarlo. Quindi ci sentiamo onorati di poter collaborare con Dio a portare avanti la creazione. Ma inquinamento, sfruttamento selvaggio, deforestazione, e chimica che potrebbe essere rimessa con delle buone spese in situazioni dove non nuoce, e tutte queste robe che... è essere creatori o distruttori? È buona amministrazione o cattiva amministrazione? Ci ha lasciati qui responsabili, è responsabilità o irresponsabilità? Io non lo so se è vero che gli Stati Uniti tengono nascosti i risultati dei loro studi, che per il 2020-2025 ci saranno delle alluvioni che moriranno milioni di persone e ci saranno delle grandi guerre perché tutti cercheranno di rubare un pezzetto di terra per stare su sull'asciutto invece che in mare, a mollo. Non so se è vero, ma se fosse vero, quella è la conseguenza di una buona amministrazione, di una buona gestione della terra che Dio ci ha affidato. È una questione di morale. Quella roba lì è offendere Dio, è ammorbare l'ambiente, è ammazzare le persone. E se noi siamo nati in un'aiuola di fiori, i nostri nipoti nasceranno su delle discariche, se andiamo avanti di questo genere. Rendiamocene conto? E l'altro pensiero: io sono figlio di Dio Padre Onnipotente, creatore. E un figlio deve avere le caratteristiche del padre. Sono creatore io. Uno pigro che non sviluppa la testa, che non lavora con le mani, che non si dà da fare, che non si arrovella dalla mattina alla sera, ma assomiglia a Dio Padre Onnipotente, creatore. Gesù diceva questo quando lavorava di sabato: tu non puoi lavorare di sabato. Io lavoro anche di sabato, non lavori per guadagnare soldi, per guarire, per istruire. Io opero perché il Padre mio opera sempre, il Padre mio lavora continuamente. E io che sono suo figlio lavoro continuamente. Allora, come si fa ad essere creatori a immagine di Dio nostro Padre? Bisogna avere un cervello, usarlo, non essere dei pappagalli che ripetono le quattro frasi fatte dalla televisione come delle oche a secondo che sono di sinistra o di destra. Ho io un mio pensiero politico ponderato, ho io una visione della vita mia studiata, cercata, confrontata, o sono un rimorchiato, un vagone che va a casaccio su e giù per un binario. Lavoro io. Il Vangelo dice: non preoccupatevi, non preoccupatevi, non preoccupatevi. Preoccupati mai, ma occupati sempre, se no non siamo a immagine di Dio, nostro Padre Creatore, che opera sempre, che è sempre intento a lavorare. Ma lavorare non nel senso bieco della parola, come se fossimo delle macchine o delle bestie da soma. Lavorare anche con la testa, anche la preghiera è lavoro, anche il tenere insieme la propria famiglia con amore è un impegno. Preoccupati mai, ma occupati sempre. Allora siamo a immagine e somiglianza di Dio, nostro Padre Creatore.